Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Nel giugno del 1949 una delegazione di membri del Congresso americano arriva in Italia. Il programma prevede un sopralluogo alla stazione Termini di Roma, ricostruita dopo i danni subiti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Scopo della visita, tra l'altro, è verificare proprio come si stanno utilizzando gli aiuti del piano Marshall, vale a dire del programma messo a punto dagli Stati Uniti per contribuire alla ricostruzione dell'Europa, come sappiamo bene. La visita ha dei risvolti inattesi. Lo apprendiamo leggendo uno dei saggi contenuti nel volume, pubblicato dalla Terza, dal titolo Storia Mondiale dell'Italia, curato da Andrea Giardina, che è nostro ospite questa sera. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, vediamo insieme come andò a finire e poi entriamo più nel dettaglio dell'intera opera. La visita dei membri del Congresso americano faceva parte della prassi. Dal momento della convalida del piano Marshall nel 1948, il Congresso doveva approvare ogni anno il cosiddetto Country Study, il rapporto predisposto dalla missione dell'European Cooperation Administration, presente in ciascun paese che aveva aderito al piano americano. Il governo italiano voleva dimostrare che l'aiuto americano era stato usato nella maniera migliore, per consentire alla principale struttura architettonica delle ferrovie italiane di riprendere a pieno le sue funzioni. Ma la visita si rivelò una specie di boomerang. Alcuni membri della delegazione americana fecero notare che nessuna stazione esistente nei loro collegi aveva le dimensioni e la foggia di quella romana e che sarebbe stato difficile far accettare ai loro elettori che i soldi dei contribuenti statunitensi fossero serviti a ricostruire non una stazione, ma un vero e proprio monumento. Da un punto di vista economico, tra il 1948 e la fine del 51, gli aiuti del piano Marshall ammontarono a circa 11,7 miliardi di dollari. La quota che toccò all'Italia fu pari a poco meno di 1,3 miliardi di dollari. Allora, professor Giardina, l'episodio raccontato nel libro mette in luce alcuni aspetti di grande interesse su come gli aiuti del piano Marshall vennero utilizzati nel nostro paese. Aspetti contraddittori, come abbiamo appena sentito, che investivano gli Stati Uniti al pari dell'Italia in questo caso. Ecco, parliamone un attimo insieme. Sì, è una storia molto complicata. L'episodio che riguarda lo stupore dei rappresentanti americani di fronte alla stazione Termini e al fatto che i fondi di piano Marshall dovessero andare per costruire appunto ricostruire una stazione che negli Stati Uniti sarebbe stata impensabile, un vero e proprio monumento nazionale. In effetti la stazione Termini, dobbiamo riconoscerlo, è un capolavoro dell'architettura italiana del secolo scorso, anche se molti italiani forse questo lo ignorano. È interessante l'episodio perché fa capire come in fondo in quel momento venissero in contatto due mondi che rispettivamente erano ancora un po' esotici. L'Italia era poco conosciuta negli Stati Uniti, al di là dell'oceano, se non per alcuni stereotipi o positivi o negativi, di volta in volta, secondo le circostanze e i punti di vista. E al tempo stesso gli Stati Uniti sarebbero stati conosciuti soltanto dopo il dopoguerra con la grande circolazione di cinema, di film americani, così come la vera e propria conoscenza del nostro paese sarebbe venuta grazie al successo del cinema italiano, certo, neorealista e non solo. Quindi questa è una fase in cui c'è un'apparenza di familiarità che è data dalla libertà, l'inventata di libertà, dei liberatori, da questa nuova fratellanza, ma al tempo stesso sono due culture che ancora devono familiarizzarsi. Sì. Questo episodio appunto molto divertente, molto interessante anche culturalmente, fa capire come questa grande macchina degli aiuti economici e i problemi del loro uso, problemi sia politici sia di strategie economiche, si inseriscono dentro un quadro complesso di relazioni, di sentimenti, di modi di vedere il futuro, il progresso. È una storia molto bella, molto anche sì, drammatica. Molto interessante, perché da un lato, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, il problema dei membri del congresso è di giustificare presso i propri elettori che i soldi del piano Marshall stanno andando a buon fine. Dall'altro c'è in Italia un acceso dibattito tra i partiti di governo e le forze di sinistra proprio sull'utilizzo dei fondi del piano Marshall. Quindi questa doppia, come dire, contraddizione emerge nettamente dal saggio. Sì, sono diciamo dibattiti e perplessità nell'una e dall'altra parte. D'altronde in Italia gran parte dei fondi furono utilizzati o per infrastrutture o per addirittura per ripianare il bilancio, e non erano proprio esattamente queste le priorità, ma lo stesso fu fatto in Francia, anche se in misura minore. Insomma, poi alla fine le esigenze della politica del consenso hanno avuto la prevalenza rispetto nel nostro paese rispetto alle strategie di lungo periodo che avrebbero suggerito altre destinazioni di quei fondi. Già si affaccia un problema della storia d'Italia, che poi ci ritroviamo fino ai giorni nostri, della storia del dopoguerra, anche della lunga storia d'Italia, dell'Italia nazione. In queste vicende possiamo leggere un po' una sorta di profezia sì. su quello che poi accadrà. È vero, ma veniamo ora al volume nel suo complesso, professor Giardina. È un'opera di oltre 800 pagine. Ci illustra la metodologia utilizzata. Già il titolo è emblematico: Storia mondiale dell'Italia. Ecco. Sì, Storia mondiale dell'Italia può suonare, ma non è questa l'intenzione, un po' trionfalistico. Per fortuna non abbiamo appunto retaggi di grandi imperi contemporanei da rimpiangere o trionfalismi. Mi pare che l'Italia, diciamo, suo malgrado, probabilmente sia stata immune recentemente, nei decenni precedenti, da queste così suggestioni. E un invito a una lettura liberatoria della storia nazionale. Storia mondiale perché l'Italia nel mondo, e questo è prevedibile attraverso la sua cultura, i suoi grandi personaggi, attraverso i suoi drammi, attraverso l'immigrazione, e il mondo in Italia. E quindi è un doppio significato di mondiale, ecco, non soltanto di proiezione verso l'esterno, un po' trionfalistica, i successi, ma anche il mondo tra noi. È una storia ricca, complessa, di grandi acquisizioni, di grandi sperperi, di drammi e di grandi realizzazioni. Tra le molteplici suggestioni contenute in un libro così ponderoso, vorrei soffermarmi, professor Giardina, se è d'accordo, sulla parte relativa al fascismo. Sì. Perché in effetti oggi stiamo assistendo in qualche modo a una forma, come dire, di rimozione, vogliamo chiamarla così, mentre nel libro si pone bene in luce, cioè ad esempio per quanto riguarda le leggi razziali, ma anche per quel che riguarda quel che avvenne nel nostro paese in quegli anni, il ruolo esatto del fascismo, e quindi è il contesto per come dire, storicizzare quello che avvenne. Sì. Questa è una cosa che abbiamo voluto, diciamo, fortemente. Ci sono molti, molti capitoli, molti pezzi, sono brevi capitoletti, sono destinati al razzismo italiano, ai criminali di guerra italiani, alla mancata Norimberga italiana. Su questi temi abbiamo appunto alcuni grandi personaggi, diciamo, grandi in quanto grandi criminali di guerra, come il maresciallo Graziani. Tutti aspetti su cui abbiamo voluto insistere anche per cercare di combattere attraverso una comunicazione un po' più diffusa di quello che già avvenga attraverso i lavori, gli studiosi che hanno lavorato su questi temi, per combattere il mito del bravo italiano. Il mito del bravo italiano, dell'italiano buono, che è stato veramente velenoso per il nostro paese, ha poi tra l'altro una sua versione e anche quindi una sua attualità, proprio di attualità nei giorni nostri, nei giorni in cui stiamo parlando, nell'idea, nella retorica del fascista buono, no? Sì. I bravi ragazzi, abbiamo sentito, no? Sì, Focardi ha scritto dei libri, no? Su questi sì, ha scritto dei libri sia sull'italiano buono, il nazista, cattivo. Però ecco, quando sentiamo oggi di fronte a gesti di tipo squadristico di una gravità enorme, perché nella violenza non c'è soltanto la bastonata, ci possono essere azioni, intimidazioni, parole che sono ben più pericolose, ben più violente di una bastonata. Allora quel dire sono bravi ragazzi, il problema non è il fascismo, il problema è altro, questa è una vecchia storia, è una vecchia storia, è storia recente certamente, è una vecchia storia che ritorna e di cui non ci siamo ancora liberati. Ecco, insistendo su questi temi abbiamo voluto, forse qualcuno si dispiacerà, ma insomma abbiamo voluto dare un contributo a un ripensamento, a un approfondimento su questi stereotipi che hanno messo spesso il nostro paese su una falsa direzione. E infine, professor Giardina, occorre ricordare che le leggi razziali del 38 varate da Mussolini sono molto severe, quindi non è che è proprio il mito del buon italiano in quel caso. No, certo, noi non abbiamo avuto la nostra fortuna, i campi di concentramento, non abbiamo avuto la nostra Auschwitz, ma quello che lei dice è verissimo ed è poco noto, cioè le leggi razziali italiane sono più severe di quelle naziste, per molti aspetti normativi che adesso non è il caso di ricordare, insomma, ma questo è noto, sono noto diciamo agli studiosi, non è noto di più. Sì. Certo, non abbiamo, certo, se poi il metodo di paragone è sempre il nazismo, gli orrori del nazismo, o se altri preferiscono dello stalinismo, allora ci collochiamo in una graduatoria diciamo medio-bassa della classifica. Ma questo non sono discorsi che non hanno nessun senso, naturalmente, sono giochi di salotto. L'importante è che ognuno faccia i conti, ogni popolo faccia i conti con la propria storia, quindi anche con le proprie con le proprie zone d'ombra, le proprie zone scure, zone nere nel nostro caso, perché largamente segnate dal fascismo. Allora, professor Giardina, grazie veramente per essere stato con noi. Abbiamo illustrato alcuni, perché ce ne sono tantissimi, elementi di interesse di questo bel libro, Storia Mondiale dell'Italia, che è edito dalla Terza, di cui consigliamo a tutti la lettura. Buonasera ancora, professore. Grazie. Grazie, buonasera.